Iniziamo una delle tante corrispondenze di questo pomeriggio. Adesso abbiamo in onda con noi una compagna di Torino dell'Assemblea Antirazzista. Ciao, ci senti? Ciao, sono Chiara. Ciao, benvenuta. L'Assemblea Antisessista di Torino, è nata da poco. E appunto abbiamo chiesto di fare questo intervento per presentare un po' un'iniziativa che ci sarà il 7 marzo a Torino, e che è partita appunto da questa assemblea che si è venuta a creare da poco, diciamo, da poco tempo. E è accaduto un episodio di stupro in quartiere San Paolo, che è il quartiere dove io abito a Torino, un episodio di stupro in contesto di bar, locali, e appunto riferita a una ragazza che quella sera stava girando magari vari posti, si è trovata in uno stato alterato ed è accaduto quello che è accaduto. Noi è quello a cui ci teniamo, appunto, è dare una risposta a questo fatto e anche portare avanti il discorso, non solo con l'iniziativa del 7 marzo dove ci sarà un corteo in quartiere, ma anche costruire strategie e allargare un po' questo discorso ai vari collettivi femministi che ci sono in Torino. E inizialmente si sono pensate varie azioni che si potevano fare, però il gruppo si è un po' disperso, e anche azioni più violente e dirette nei confronti della persona, diciamolo, perché quella è la prima reazione che ci è venuta in mente. E abbiamo voluto provare ad andare anche oltre e allargare questo discorso. Inizialmente non è stato facile perché il pregiudizio comunque è molto forte, quello che abbiamo incontrato sia da parte degli uomini e anche da parte delle donne, anche da parte di compagni e compagne che frequentano appunto posti occupati, centri sociali, però di fatto il discorso ha preso più piede rispetto al pregiudizio, nel senso che l'interesse di approfondire questo argomento ha fatto sì che questo discorso potesse andare avanti. Mi senti? Sì, sì, ti sento, ti sento, okay. Ti stiamo ascoltando, sì, stiamo okay. Cercando di capire, insomma, questo diciamo è un appello che nasce da un particolare episodio, però quanto mi sembra di capire, esatto. Insomma, la vostra reazione non si fermerà là, ma cercherà di andare avanti, di interrogarsi e di trovare delle strategie di autodifesa che le donne è necessario che mettano in campo. Mi sembra che, insomma, nel vostro discorso questo, diciamo che appunto sì, dai nostri confronti i temi principali che sono venuti, su cui vogliamo lavorare, sono sicuramente il consenso. Quindi che sia chiaro che cosa significa il consenso, sì. Per gli uomini e per le donne, nel senso che anche c'è anche questo senso di colpa, no? Di dire mi sono messa in una situazione di pericolo, mi sono messa in una situazione in cui non mi sono tutelata e forse mi è capitato per questo. E da parte degli uomini anche dire, cioè capire che se una ragazza in quel momento si trova in uno stato alterato e non ce la fa a dirti no, non significa che sia un sì. Sì, no, infatti è interessante questo ribaltamento, non è solo un no significa no, ma deve esserci un consenso chiaro. Quindi un rapporto di amore, un rapporto sessuale nel momento in cui si sta compiendo, insomma, anche delle varie fasi in cui non è sempre detto, insomma, che andare fino in fondo sia un sì riconosciuto in tutte le sue tappe, quindi è importante anche, soprattutto in situazioni del genere, quando la donna non, in quel momento non è in grado magari anche di reagire in modo troppo lucido, che tutte queste tappe siano rispettate. E sì. Questo mi sembra un discorso molto. Abbiamo deciso appunto di lavorare un po' per gruppi, c'è anche un gruppo che si sta occupando proprio di mettere insieme anche del materiale informativo rispetto a quelle che sono le sostanze che vengono assunte durante le serate e che possono avere questi effetti, e conoscerne gli effetti sui vari mix di sostanze e anche sulle droghe dello stupro che comunque vengono usate e vengono, sì, utilizzate. Che sono particolari perché sono, poi sono anche molto disinibenti, per cui magari all'esterno molte volte vedi una situazione di complicità che in realtà non è, e quindi è anche, esatto, difficile intervenire, no? Perché non conosce bene le persone. Sono magari inizialmente disinibenti, c'è, cioè, sì, anche questo effetto con un aumento della libido, e poi però agiscono sul sistema nervoso, ti bloccano il sistema nervoso, te lo invalidano per un certo tempo, per poi alla fine crearti questo blackout dove tu non ti ricordi più nulla. Sì, somministrate apposta. Anche somministrate apposta. però appunto il discorso non è che è solo su quelle sulle sostanze somministrate apposta, ma anche su quelle che assumiamo sì. in maniera consapevole, più o meno consapevole. Ma come si svolgerà questa giornata, questo pomeriggio, come ve lo immaginate? Ci sono delle tappe oppure questa giornata appunto partirà da una piazza centrale del quartiere, piazza Sabotino, si snoderà per le strade passando anche da uno dei bar che è stato un po' teatro di quella serata, dove comunque abbiamo parlato con i gestori e abbiamo messo un po' di fronte al problema, abbiamo cercato di contattare anche altri gestori dei locali, e farà tappa anche nelle varie case occupate che ci saranno, che ci sono in zona, perché questa è una zona con molte occupazioni abitative e dove ci sono anche situazioni di violenza sulle donne all'interno delle case che si sono anche presentate, quindi abbiamo cercato anche di coinvolgere le donne che sono appunto nelle occupazioni qui in quartiere, più che altro appunto il lavoro sul quartiere, ma non solo, cioè perché questo è un discorso che è accaduto qua, è accaduto qualche mese fa a Bologna, accade di continuo, non sempre queste storie escono fuori. No, è importante invece che escano, è importante che si crei intorno una solidarietà che permetta poi anche ad altre che si sono trovate nella stessa situazione di uscire fuori. Quindi diciamo che il taglio che si vuole dare al corteo, tutta l'iniziativa, non è certo l'immagine che viene fuori tante volte nelle campagne istituzionali della donna vittima, certo, che è poverina, inconsapevole, incosciente, subisce e non può reagire. Cioè il taglio che vorremmo dare appunto è quello, a partire dall'autodifesa personale sicuramente, quindi quello che le donne possono fare per tutelare se stesse, ma anche appunto strategie di difesa più collettive, dove tutta la società si senta coinvolta in quel momento su quello che succede, avere occhi per quello che sta accadendo in quella determinata situazione e non girarsi dall'altra parte, sì, pensando che non ti riguardi o pensando che siccome non sta accadendo a te o di qualcuno vicino a te o qualcuno vicino a te è una cosa che appunto non ti riguarda. No, infatti penso che uno dei temi dell'autodifesa è uno dei probabilmente dei più importanti, della capacità, la consapevolezza di reagire. Qui a Roma per esempio sono state fatte negli ultimi mesi dei cortei in cui una delle parole d'ordine era le strade sicure le fanno le donne che le attraversano, no? Era anche molto interessante come approccio, e quindi mi sembra anche abbastanza in linea con... Speriamo che ci sia una buona risposta, per il momento sì, nel senso che comunque ha preso piede, partendo da poche, le ultime assemblee che ci sono state sicuramente più partecipate, hanno raccolto anche realtà più diverse. Importante è che questo discorso appunto vada avanti, noi ci teniamo molto avanti oltre il 7 marzo, cioè 7 marzo sarà un corteo, sarà la prima iniziativa, però sono già arrivate tante proposte di cose che si possono fare sempre su questo tema, all'interno degli spazi, workshop, teatro, iniziative varie di sensibilizzazione, è arrivato anche un materiale video dove di altre campagne proprio rispetto a questo tema. Sì. Sì, sono tantissime le cose da mettere in campo. No, io direi che a questo punto allora manteniamoci in contatto, noi ovviamente la prossima settimana ne riparleremo, insomma ricorderemo alle compagne. Sì, è invitata. Infatti. Inviteremo ovviamente. Non è proprio dietro l'angolo. No, però insomma per queste situazioni ci si sposta, ecco, tutte sì, quante. Sì. Non... Ma poi ce ne sono di romane a Torino. Un po' ve ne abbiamo già mandate in contumacia. Sì. Senti, la direi di sentiamoci, e soprattutto per sapere com'è andata questa giornata e per sapere anche che tipo di iniziativa metterete in campo dopo, quindi insomma direi che iniziamo una relazione che durerà un po' e ci risentiremo e ci riaggiorneremo. Va bene, grazie. Io ti ringrazio molto per averci raccontato tutto questo e insomma buon corteo. Alla prossima. Grazie, ciao, buona lotta. Grazie. Dai, ciao. Ciao.